Lunedì 26 marzo, intanto uno sguardo ai titoli, le scelte dei quotidiani sono diversificate, il Sole 24 Ore apre sulla casa, la svolta dei metri quadri, questo è il titolo di apertura, cioè arriva, è in previsione per il governo, la revisione del catasto. Il Corriere della Sera, i miei 11 giorni di prigionia, l'apertura sulla liberazione di uno dei due italiani che erano stati presi nello stato dell'Orissa in India. E così apre anche il Messaggero, India, liberato un italiano. La riforma del mercato del lavoro invece per Repubblica, articolo 18, il governo non cederà, c'è un'intervista al ministro Fornero. Crisi di nervi, così invece titola l'Unità con una foto del governo. Per la Stampa, IRPEF, buste paga più leggere. Il Secolo XIX anche su questo, la stangata arriva in busta paga, mentre l'apertura del giornale è Casini licenzia l'UDC, manovre al centro. Io però voglio partire da cosa? Beh, intanto una notizia che abbiamo seguito passo passo, che pare ora arrivi a una svolta. Il Corriere della Sera ne parla oggi a pagina 10, la forbice sui compensi dei gran commis di Stato. Da maggio scatta il tetto a 298.000 euro. Forse ci siamo, cari ascoltatori, forse ci siamo. Da maggio, a partire dalla busta paga di maggio, i top manager delle amministrazioni pubbliche che attualmente superano il tetto di compenso annuale di 298.000 euro vedranno adeguati al ribasso i loro stipendi. È la vicenda che nel decreto Salva Italia ha posto questo tetto, dunque 298.000 euro, e pare, scrive Maria Antonietta Calabrò, non ci saranno deroghe o eccezioni, nemmeno quelle suggerite dal Parlamento, in cui si chiedeva al governo che venissero risparmiati almeno i vertici, i compensi dei vertici del comparto sicurezza, dal capo della polizia al comandante generale dei carabinieri. Monti è stato irremovibile. E dunque, eccolo qui che scatta questo tetto da 298.000 euro. Per esempio Antonio Manganelli, capo della polizia, che veleggia sopra i 600.000 euro, o il ragioniere generale dello Stato Mario Canzio, l'ex capo dell'amministrazione penitenziaria Franco Ionta, sempre siamo sui 530.000 euro. Pare che da maggio scatterà dunque questo tetto, 298.000 euro. Staremo a vedere se nelle pieghe dei commi che spuntano sempre all'ultimo momento ci sarà qualche deroga oppure no. Intanto, se questa è una buona notizia per chi segue il mondo della casta e quant'altro, non è una buona notizia quello che pubblica il giornale a pagina 12. Altro che tagli, l'Italia dei campanili vuole ancora più comuni e province. Paolo Bracalini racconta in una pagina le proposte di legge da nord al sud, le battaglie per aumentare gli enti locali. Ma come, si diceva, ci sono troppi comuni in Italia, siamo l'Italia dei campanili. Eppure qui, tutte depositate in Parlamento. Patria Felix, Costa dei Sogni, Napoli Marittima, Domizia, Scipio. Non è una gara, Stravince l'Iternum. Questo è secondo Bracalini, cioè Napoli Marittima, Domizia, Scipio, Patria Felix, Costa dei Sogni, sono tutte proposte di legge per fare province, comuni, regione, ma stravince appunto l'Iternum in questa gara, il nome che avrà il comune nuovo di Zecca che il comitato l'Iternum chiede da tempo per staccarsi dal detestato comune di Giuliano in provincia di Napoli. Ovviamente già pronte frotte di consiglieri, assessori e aspiranti sindaci. Siamo l'Italia dei campanili, scrive Bracalini, e allora perché non fare la regione Brescia, come chiede in una proposta di legge il deputato e presidente della provincia di Brescia, Daniele Molgora. Tra l'altro è colui che ha fatto ricorso contro il taglio del suo vitalizio da ex parlamentare. Noi lo chiamammo più volte, ma non ha mai accettato di venire a spiegarci il perché. Oppure il leghista del Trentino Sergio Divina propone una nuova provincia, altro che tagliarle. La provincia autonoma ladinia, allo scopo di garantire la tutela della minoranza ladina. Oppure il comitato Piano Tavola non si dà pace finché non avrà ottenuto che le 8.000 anime ora sparse tra 4 comuni della provincia di Catania non saranno amministrati dal sindaco di Piano Tavola, per l'appunto nuovo comune. C'è poi la frazione di Aci Trezza, quella dei Malavoglia, dove da tempo si discute la possibilità di indire il referendum per istituire il comune. Comune di Aci Trezza e così via, insomma. L'Iternum a Napoli, Cassibile a Siracusa, nuove province. Altro che tagli, l'Italia dei campanili vuole ancora più comuni e più province. Così è. E intanto noi ci fermiamo per 5 minuti. Le 7 e 34 minuti, certo, la riforma del mercato del lavoro è ancora un tema, il tema principale che è sviluppato dai giornali. Voglio partire da Repubblica. Repubblica, con il suo vice direttore Massimo Giannini, fa una intervista, colloquio con il ministro Elsa Fornero. Articolo 18, il governo non cederà, lo trovate a pagina 2 e 3. Questa è una riforma seria ed equilibrata, inizia così il ministro Fornero. Spero che i partiti capiscano, modifiche se ne possono fare, ma il governo non accetterà che questo disegno di legge venga snaturato, sia ridotto in polpette. Inizia così il colloquio con il ministro Fornero, che scrive Repubblica, lancia un appello alle Camere. Il provvedimento potrà subire qualche cambiamento, ma chiediamo che il Parlamento sovrano ne rispetti l'impianto e i principi basilari. In caso contrario si assuma le responsabilità e il governo farà le sue valutazioni. Tra l'altro, a un certo punto il tema più dibattuto, quello della mancata possibilità di reintegro per i licenziamenti per motivi economici, dice Fornero, la linea l'ha tracciata il presidente Monti, le discussioni con le parti sociali si fanno, sono doverose, ma a un certo punto devono finire e il governo deve trarre le sue conclusioni, anche se qualcuno non è d'accordo. Su questo c'è assoluta fermezza da parte nostra. E appunto sulla questione del reintegro è chiaro che non accetteremo modifiche che snaturino il senso delle singole norme. Sull'articolo 18, nei licenziamenti per motivi economici oggettivi, è previsto l'istituto dell'indennizzo, non quello del reintegro. Si possono fare correzioni, ma questo principio base della legge dovrà essere rispettato. Dunque, il ministro Fornero dice su questo non c'è la possibilità di ridiscutere e reintrodurre la questione del reintegro. Anche se è ciò che in un'intervista il segretario della CISL Bonanni ribadisce oggi al Corriere della Sera, intervistato da Antonella Baccaro, a pagina 9, dice Bonanni, io intanto sul mio, l'accusa di un dietrofronte, no? All'inizio aveva detto sì per non lasciare da solo il governo a decidere come aveva fatto sulle pensioni, e poi Bonanni ha fatto un po' retromarcia, ma dice ora il segretario della CISL era chiaro che la norma sui licenziamenti economici andasse meglio specificata. E mi muovo subito per porre rimedio. Il giorno dopo ho incontrato Monti per porre un correttivo che il presidente ha accolto, tant'è vero che nel testo distribuito si specifica che deve essere evitata ogni forma di abuso dei licenziamenti economici. Ma riguardo a questo punto chiave, dice Bonanni, abbiamo modificato la norma e comunque va cambiata, c'è un buco da coprire. Non è possibile che un datore di lavoro licenzi adducendo una crisi che non può dimostrare. Dunque su questo Bonanni insiste anche lui, i licenziamenti economici di fatto sono infondati visto che una crisi economica, uno stato economico è difficilmente dimostrabile, dunque ci vuole il ritorno alla possibilità del reintegro. Più dura è la leader della CGIL Susanna Camusso, ieri ospite tra l'altro anche di Lucia Annunziata, in mezz'ora. Per cui ci sono, a volte anche le immagini hanno un loro senso e un loro significato. C'è questa fotografia di un paio di giorni fa in cui Susanna Camusso ride in maniera beata e pacifica insieme al premier Mario Monti, erano a pranzo a Cernobbio, ci sono le foto, io l'ho messa anche su Twitter, no? Etalino Milan, la potete vedere. E ridono, però vabbè, va bene, ci sta bene tutto, le discussioni aspre poi quando si sono incontrate a pranzo hanno avuto un colloquio molto cordiale. Però poi invece Camusso, quando fa interviste, rimette la faccia molto molto arrabbiata ed eccola qui, no? Molto molto indurita. Camusso, sciopero a maggio, la leader della CGIL ha detto Monti ha sparso e ha generato ansia tra i lavoratori che ora pensano vi sia accanimento. Su questo ha fatto un errore clamoroso. Tra l'altro sul ruolo della CGIL vi sottopongo due articoli. Il primo è quello dell'editoriale, è l'editoriale del Corriere della Sera di Angelo Panebianco. Oggi in prima pagina, poteri di veto e Costituzione, scrive Panebianco. Il quesito è se sia parte integrante della riforma del mercato del lavoro il potere di veto dei sindacati, in particolare della più forte organizzazione, la CGIL. Molti pensano che almeno dagli anni 70 dello scorso secolo quel potere di veto sulle questioni del lavoro sia uno dei pilastri su cui si regge la Repubblica. Di qui la diffusa convinzione proprio di chi confonde democrazia e costituzione materiale, secondo cui sfidare quel potere di veto equivalga a mettere in discussione la democrazia. Panebianco poi ricorda che prima di oggi, negli ultimi 30 anni, il potere di veto della CGIL è stato sfidato in due sole occasioni da Craxi sulla questione del punto unico di contingenza. In quell'occasione la CGIL perse la partita, e da Berlusconi proprio sull'articolo 18, ma l'allora segretario della CGIL Cofferati mobilitò tutte le forze antiberlusconiane e l'articolo 18 non venne toccato. Stavolta però, scrive Panebianco, Monti e Fornero possono essere dipinti nelle piazze anche come nemici di classe, ma si dà il caso che l'attuale governo sia un governo del presidente, voluto e sostenuto da Napolitano. Sarà alquanto difficile e poco credibile trattare da nemico di classe anche il presidente della Repubblica. Né aiuta la CGIL il contesto recessivo e i potenti vincoli esterni che incombono sull'economia italiana. Questo oggi Angelo Panebianco sul Corriere della Sera. Mentre in un articolo di cronaca, pagina 2, è duro il giornale. La CGIL pretende l'articolo 18, ma non per sé. Racconta Emanuela Fontana di quella che viene definita l'ipocrisia del sindacato. A parole difende il posto fisso, intanto lascia a casa i dipendenti senza giusta causa. Dipendenti che racconta il giornale, si sono riuniti in un blog, un sito internet, licenziati dalla cgl.blogspot.it. Non è solo uno sfogo, è una bacheca che raccoglie atti giudiziari con ricorsi e addirittura una sentenza di condanna della CGIL, la prima storica decisione di un tribunale contro il sindacato guidato da Susanna Camusso. E tra l'altro la incongruenza, secondo il giornale, è questa: la CGIL, che minaccia lo sciopero generale contro le modifiche dell'articolo 18, in realtà non è tenuta per legge a reintegrare i suoi lavoratori licenziati senza giusta causa. Infatti i lavoratori sindacali non sono coperti dall'articolo 18. La legge che lo stabilisce è la numero 108 del 90, che dice all'articolo 4, l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica. Ed è quella chiave, senza fini di lucro, che appunto coinvolge anche i sindacati. Dunque il giornale attacca a pagina 2, la CGIL pretende l'articolo 18, ma non per sé. Intanto su questo il Sole 24 Ore fa un'interessante analisi di come potranno cambiare ora con la riforma tutte le cause di lavoro, spazio al rito breve per tagliare i tempi del contenzioso. È un articolo che trovate a pagina 6. Le misure in arrivo devono rimediare alla crescita delle liti. Di sicuro, si legge, negli ultimi 2 anni c'è stato un appesantimento del carico di lavoro dei tribunali. In base a un'elaborazione dei dati del Ministero della Giustizia, i procedimenti pendenti nei tribunali in materia di contenzioso al lavoro sono aumentati del 9% tra il 2010 e il 2011. E anche l'eventuale nuovo rito, per quanto semplificato, dovrà affidarsi alle forze dei giudici del lavoro. Nei tribunali sono 453 per gestire 284.365 processi pendenti. E come fanno? Che ne so, a Catania ci sono 7 giudici del lavoro con un contenzioso di quasi 25.000 cause. Possono lavorare 50 ore al giorno, oppure dedicare un minuto a causa. Questa potrebbe essere una soluzione. Questa è anche la situazione. Comunque trovate le cause pendenti provincia per provincia: ad Ancona 1372, a Bari 23.286. E che c'è a Bari? Ci sono appunto province, a Bologna 3.500 cause pendenti, a Brescia 3.200, a Napoli 20.000, a Palermo 6.900, a Roma 50.950 cause pendenti. Se fossi un giudice del lavoro a Roma, appena mi sveglio mi viene un'emicrania di tutti questi faldoni che mi sento pesare sulla testa, che non mi passa più. In ogni caso, di questa riforma del mercato del lavoro ci sono anche riflessi politici. Segnalo un'intervista al segretario del PDL Alfano sul Messaggero, intervistato da Carlo Fusi. La riforma è a rischio, gli effetti sono negativi sui mercati. Questo è il succo dell'intervista che trovate a pagina 5. Mentre Casini si è azzardato a dire: attenzione, perché se continua così prima o poi il governo entra in crisi e sarebbe un atto di irresponsabilità allo stato puro. Questo dice Casini: avanti così e il governo va in crisi. Infatti questo è il titolo a pagina 8 del Corriere della Sera. E invece sul fronte Lega vi segnalo questa perché è spettacolare, ve la devo leggere così: poche persone si possono paragonare a Mario Monti. A me viene in mente Schettino. Ci sta portando sugli scogli. Un uomo che mi sta così sulle palle. Come Monti non l'ho mai trovato. Il governo è trattato bene da TV e giornali, così come Schettino è un eroe per i suoi compaesani. Lo ha detto Roberto Calderoli. Intanto c'è una riforma in vista, questo almeno racconta il Sole 24 Ore, l'apertura di oggi. Casa, la svolta dei metri quadri, dunque una riforma del catasto che, se fosse fatta, riguarderebbe davvero tutti gli italiani. Pagare l'IMU in base ai metri quadri e su valori più in linea con i prezzi di mercato e la redditività degli immobili. Questo è l'obiettivo della riforma del catasto, che è stata inserita nella bozza di legge delega per la riforma fiscale che il governo approverà la prossima settimana. Dunque un progetto che si propone di superare le disparità delle rendite catastali attuali, elaborate fotografando il mercato immobiliare nel biennio 1988-89, dunque hanno certamente bisogno di un aggiornamento. Questi sono i piani annunciati dal Premier. Cristiano Dell'Oste fa e racconta tutti i dettagli a pagina 3, con anche le simulazioni di come potrebbe cambiare il calcolo dell'IMU, quindi dell'ex ICI da pagare. Le ingiustizie dell'IMU sono queste: ci sono case in centro, nelle città storiche, che sono rimaste accatastate come stamberghe e pagheranno spiccioli di IMU anche se negli anni si sono trasformate magari in loft di lusso, e ci sono invece alloggi penalizzati da una distribuzione delle stanze che fa aumentare il numero dei vani e la rendita catastale. A tutto questo il governo vuol porre un rimedio con un nuovo catasto che ha l'obiettivo di tagliare le disparità del pagamento dell'IMU. A proposito di tasse da pagare, domani è il 27 marzo, cari ascoltatori. Allora, tutti i giornali dedicano, io vedo sulla Stampa, il Secolo XIX, il Corriere, domani la prima stangata per pensionati e dipendenti. Scatta infatti l'aumento dell'addizionale regionale IRPEF previsto dal decreto Salva Italia. In bocca al lupo, cari italiani. Domani è il 27 marzo. Tra l'altro, a proposito di questo, c'ho una notizia trovata sulla Stampa che mi ha molto incuriosito e anche un po' inquietato. La racconta Paolo Russo a pagina 7. Una beffa per gli anziani ricoverati. L'IMU è doppia. Io quando ho letto questo titolo l'ho voluto rileggere almeno 3 o 4 volte perché non ci volevo credere. E invece la vicenda è questa ed è inquietante: per gli anziani ricoverati a vita nelle case di riposo, nelle residenze socioassistenziali pubbliche, arriva una beffa, la Super IMU, la nuova imposta che sostituisce la vecchia ICI. Questa è una conseguenza dell'articolo 13 del decreto Salva Italia, per cui se il ricovero è permanente, il tributo per il 2012 deve essere calcolato come per la seconda casa. Quasi il doppio, cioè 7,6 per 1000 contro il 4 dovuto per l'abitazione principale. Ma vi rendete conto? Cioè uno ha anche la sfortuna, di essere ricoverato in una residenza, magari a vita, perché sta male, perché ha bisogno di assistenza e non può averla domiciliare, e viene calcolato, e non sono pochi anziani, fa sapere il sindacato SPI della CGIL, non pochi anziani che possiedono una casa ma risiedono in via permanente in case di riposo private. Il risultato: a giugno sono circa 300.000 anziani, arriverà a loro una stangata di parecchie migliaia di euro se il governo non correrà ai ripari con una norma ad hoc o con una circolare interpretativa, verrà calcolato per loro come se fossero residenti nella seconda casa. Beh, ma io voglio sperare che, se è vera questa notizia messa così, arriverà questa circolare interpretativa o la norma ad hoc per cambiare questa cosa. La cronaca. Molti giornali aprono sulla liberazione di uno dei due italiani che erano stati sequestrati dai guerrieri maoisti, marxisti, diciamo, più che maoisti, sì, partito comunista maoista, marxista, dell'India. È stato liberato Claudio Colangelo dallo stato dell'Orissa, mentre invece è detenuto ancora l'altro, Bosusco. Dunque, come gesto di umanità, i rapitori hanno lasciato uno dei due in marcia giorno e notte mangiando pane azzimo. Questo è il titolo a pagina 3 del Corriere. Viene intervistato anche da Repubblica. Il caldo era insopportabile, abbiamo bevuto acqua dei fiumi. Smentisce Claudio Colangelo di essere stato arrestato perché fotografavano donne nude. Assolutamente nessuna foto compromettente, eravamo lungo un fiumiciattolo, facevamo un bagno, è assolutamente falso, questa polemica riguarda solo l'India, noi stavamo facendo un giro, certo in uno stato dove ci avevano sconsigliato di andare, ma dice il mio amico Paolo Bosusco, che frequentava quelle zone, si diceva molto sicuro. In ogni caso, ovviamente, si teme invece per l'altra persona. Noi alle 8.30 avremo ospite il ministro della salute Renato Balduzzi. Certo, gli chiederemo anche di questa vicenda incredibile di farmaci acquistati online da due medici e dati, più che farmaci erano integratori pare, acquistati su eBay e dati a una ragazza che è morta per un'allergia. Allarme test killer, maxi sequestro in tutta Italia, e su Repubblica ma anche sul Corriere, test allergici, tre indagati, maxi sequestri del farmaco, di questo dolcificante, e certo il timore di acquistare sempre le cose online. Devo chiudere? Sì, lo sport, vabbè, una Juve al bacio, la Juventus ha vinto contro l'Inter 2-0. Rimane a meno 4, ma va bene, la partita vera è tra due giorni, Milan-Barcellona. Il pallottoliere è pronto e il giornale radio in arrivo.